Per le strade fra marciamo, balliamo, sbagliamo, ma ci abbiamo. Siamo spietati, facciamo fuori tutta sta weed. Dopo freestyle in extra beat, dopo la tipa che si inchina. XXX, stessi sulla panchina. Viaggiamo in mostro l'anteprima. Si avvicina anche la vicina con la voce da bambina. Innocente ma cattiva, l'amico pieno di cocaina. Ma zero adrenalina, morte bianca si avvicina. Non busse si fa viva come la pula prima mattina. Con paura vorresti tornare alla giornata come quella prima. Non puoi, quindi cambi vita. Vuoi cambiare figa, però non cambio cazzo, la fai finita. Lo striscione col tuo nome sui pali. Passano i miei fra, lo strappano e lo danno ai cani. Perché testano la guerra come gli iraniani. Viene fratellina, vieni a ca. Mi faccio minutata per piaggiare. Quello di fare male non ci pensa. Rilassati stasera e poveri ma gamma fa. Viene fratellina, vieni a ca. Mi faccio minutata per piaggiare. Quello che fa rimane non ci pensa. Rilassati stasera e poveri ma gamma fa. Scende la coppa, piglia macchina e t'aspetta le tue amiche. L'amica riceve che veniva fra 10 minuti. Ma è già mezz'ora che stunga aspettando a ca. Che portella che già fa va a cattà. Nu piezza ma serata pronta ci fa rilassà. Visto che è tardi corre forte un coppa su gamba minata. Perché mai già sta accorto per si fosse che ci stanno. Si strada l'ammortizzatore si stanno magnando. L'appuntamento che compagna è sempre solito posto. Chi sta imbriaca e te ne capa rende giostra. Mostra, situazione a mostra. Perché pure si costa te ne futta spia lo stesso. Ma mo mi sto sfastriando piccio muovo da fan bressa. Arra voglia su cannone. Però cagniamo zona perché ci stanno i pandera. Rompano cazza gente che sto fanno per mestiere. Non voglio avere problema per tutta nottata intera. Non mi voglio indusso capo che stasera sto in galera. Ad che da schiera, ad che morta rete chat. Una voce che sto lato a Luca forte sto tutto fatto. Viene fratellina, viene a ca. Mi faccio minutata per viaggiare. Quello che fa rimane non ci pensa. Rilassati stasera e poveri ma gamma fa. Viene fratellina, viene a ca. Mi faccio minutata per viaggiare. Quello che fa rimane non ci pensa. Rilassati stasera e poveri ma gamma fa. Sei una ragazza di periferia, quindi non sei strada ma casa mia. Sei brava piena di fantasia, io devo andare per le strade, lì sta la vita mia. Lontano dalla famiglia a comprare la Maria, componendo dei sistemi, facendo fuck alla polizia. Arrivano le camionette, scendono delle merde, preparano le manette, si prendono loro tutto il verde. Tutti i morti che gli ho bestemmiato, non è mai cambiato niente. Una gioventù passata a contare le papele, ha, tu le paperelle, io affianco un assistente, tu un demente. Io su diamante, tu su due posti scadente. Io con la tua tipa che cuoce ardente. Fa scintille, la spengo con il mio idrante potente. Mi guardano tutti come se stessero guardando una stella cadente. Viene fratellina, viene a ca. Mi faccio minutata per viaggiare. Quello che fa rimane non ci pensa. Rilassati stasera e poveri ma gamma fa. Viene fratellina, viene a ca. Mi faccio minutata per viaggiare. Quello che fa rimane non ci pensa. Rilassati stasera e poveri ma gamma fa.